salirò col suo peso sul petto, come una carpa il fiume. Mi spalmerò sulla faccia il rossetto per farlo ridere. Per lui poi comprerò sacchetti di popcorn, potrà spargerli in macchina. Per lui non fumerò, a quattro zampe andrò e lo aiuterò a crescere. Lui vive in te, si muove in te, con mani cucciole. È in te, respira in te, gioca e non sa che tu vuoi buttarlo via. Yeah. La sera poi con noi due farà il bagno ed insaponerò. Per lui mi cambierò, la notte ci sarò, perché non resti